Incontri di Gianfranco Fabi. Viva la mamma, affezionata a quella donna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti mister dopo guerra, pettinate come lei. Con Viva la mamma di Edoardo Bennato iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera ad Oswald Zueg. Buonasera. Oswald Zueg, come dice il nome, è il presidente della Zueg, che è una delle più importanti società nel campo alimentare, nel campo delle marmellate e della lavorazione della frutta, dico bene? Sì, assolutamente. Ed è anche una delle più antiche, ormai è un'azienda familiare di quarta generazione. Sì, adesso entriamo nella quinta. Sì. Siete nella quinta generazione, e un'azienda nata in Alto Adige alla fine dell'Ottocento. Ci può fare una breve carta d'identità della sua azienda? Sì, noi quest'anno facciamo i 125 anni, no? L'azienda è stata fondata da mia bisnonna nel 1890. Suo marito faceva la produzione di frutta e lei faceva l'esportazione. E così dall'esportazione, cioè produzione frutta e esportazione pian pianino, poi negli anni 20 abbiamo poi iniziato a fare anche la lavorazione della frutta con le prime marmellate, poi succhi, poi è andata avanti così. Ecco, quindi alla fine dell'Ottocento, quando l'Alto Adige era ancora nell'imperiale regio governo e quindi era anche aperto verso il resto d'Europa, poi dopo è cambiata la storia, ma siete un'azienda italiana aperta verso l'estero, non solo in Italia come produzione. Sì, adesso ovviamente era la necessità di vedere un po' dove c'è il mondo del business, quello lì non è solo, diciamo, nella patria, come si dice, ma anche in Europa e anche in Russia. Adesso abbiamo due stabilimenti in Italia e uno in Francia, due in Germania, uno in Russia. Adesso stiamo vedendo un po' le ultime trattative in America. Ecco, perché il vostro settore è il settore appunto della frutta lavorata, possiamo chiamarlo così. Sì, in un certo senso sì, però noi veniamo dalla produzione della frutta e adesso ci avviciniamo fortemente alla produzione della frutta, perché abbiamo visto che la materia prima è la base della qualità, e perciò ci diamo molto da fare anche a livello internazionale per la produzione di frutta. In Italia, diciamo, del sud, negli Irpini abbiamo circa 600 ettari, dove produciamo direttamente con i nostri contadini. Quindi avete uno stabilimento in Alta Italia e uno nel Sud Italia. Sì, esatto. E in modo per essere vicini alla zona di produzione della frutta e lavorarla diciamo dal campo alla fabbrica in maniera molto rapida. Sì, assolutamente, perché la frutta deve essere molto matura e la frutta che è nel commercio va già raccolta in uno stato non completamente maturo, perciò dobbiamo essere quasi chilometro zero vicini all'agricoltura per poter avere la massima maturità. Una frutta molto molto matura non è più trasportabile, no? E perciò la raccogliamo entro 10 ore è già surgelata oppure preparata per la seconda trasformazione. E quindi poi trasformate in marmellate, in succhi di frutta, in componenti per gli yogurt. Sì, sì, infatti. Ecco, che innovazione c'è stata negli ultimi anni sotto questo fronte? Oppure il modo di lavorazione è ancora quello della sua bisnonna? Beh, l'innovazione degli anni 60 ha tirato via tutte le sostanze chimiche che servivano per la conservazione. Noi abbiamo lavorato fino agli anni 60 con l'SO2, quella sostanza che si usa ancora nel vino. Non era assolutamente necessario da quando poi c'era. È un solfito, sì, che si usa ancora anche nell'agricoltura, eccetera, no? Però non era più necessario, perché la tecnologia del freddo o del surgelato è talmente avanzata che non abbiamo più bisogno di conservanti. Quindi, diciamo, i vostri prodotti sono senza conservanti, sono come natura ricrea, per essere fare un po' di pubblicità. Sì, si può dire così, perché usiamo solo sostanze naturali, per esempio un po' di succo di limone, zucchero, frutta, e la pectina viene in parte dalle bucce d'arancia, perciò anche questo è un prodotto molto naturale. Quindi due stabilimenti in Italia, poi altri stabilimenti all'estero, mi diceva? Uno in Francia, perché per il mercato, diciamo, iberico e anche francese bisogna essere direttamente sul posto. Noi abbiamo il concetto di essere vicini ai clienti, anche con la lingua, con la cultura. Poi abbiamo due in Germania e poi uno in Russia, perché anche in Russia questo è un grande mercato molto interessante, anche con i problemi attuali, però quelli lì si risolveranno. Beh, però spero. Il mercato dei prodotti alimentari dovrebbe subire meno di altri i cicli economici, le difficoltà, la crisi. Il problema è soprattutto oggi la politica, la geopolitica dell'America, dell'Europa, tutti questi discorsi qui di fermare i mercati attraverso le dogane, attraverso come si può dire, delle pene, no? Questo qui per me è assolutamente assurdo e ci danneggia assolutamente, perché i mercati di entrata verso la Russia sono stati in parte bloccati e così via, eccetera. Però avendo uno stabilimento in Russia potete essere autonomi, nel senso... Per fortuna, però adesso dall'Europa vengono meno materie prime che non, certo, dalla Turchia o anche da altri paesi, perciò abbiamo dovuto fare un piccolo cambiamento dei nostri acquisti. È tutto molto complicato e difficile. Come sono cambiati i gusti dei consumatori? Quali prodotti sono cresciuti maggiormente? Magari anche quali tipi di frutta sono più di moda in questo momento rispetto ad altri? Beh, certamente oggi abbiamo una disponibilità di frutta a livello globale, no? C'è l'ananas che prima non c'era, c'è il mango che non esiste in Europa e così via, perciò oggi usiamo molti frutti che vengono da fuori, ma c'è un bel trend della frutta sia locale, perché il local sta aumentando, perché la gente vuole sapere da dove arriva la frutta, eccetera, però anche il sottobosco, per esempio i mirtilli che vengono dai boschi della Siberia. Oggi il mercato della frutta è molto internazionale, perciò noi internazionalmente gestiamo la produzione della frutta dove si può. Dove si può, ecco, ma un tipo di frutta, vanno più le mele che le pesche, va più l'ananas che è un po' esotico rispetto alle fragole? Beh, nei succhi al 100%, che sono le spremute, il primo gusto è sempre l'ananas e anche l'arancia. Poi gli altri gusti non sono così importanti, c'è anche la mela limpida e così via, però queste, l'arancia e l'ananas. Nelle confetture il primo gusto è sempre tra l'albicocca e la fragola, e poi c'è un po' la ciliegia, però all'estero vendiamo moltissimi fichi di origine italiana. All'estero. Mentre in Italia si vende di meno, cioè più... E in Italia ci sono questi gusti classici, sa? La tavola italiana aveva sempre la frutta fresca, pesche, albicocche, fragole, e queste qui è dentro, diciamo, anche un po' nella cultura del consumatore italiano. Ecco, dal punto di vista nutrizionale, proprio della salute, la frutta è un elemento indispensabile, e in questo senso c'è questa consapevolezza da parte del consumatore, sta crescendo il consumo di frutta fresca o lavorata? Sì, questo, diciamo, è un trend attuale, diciamo, di alimentazione globale in un certo senso, e per questo cerchiamo di usare meno zucchero possibile, oppure al posto dello zucchero usiamo anche dei succhi concentrati, in modo che tutto lo zucchero viene dalla frutta. Però bisogna anche dire al consumatore che zucchero della frutta è anche zucchero, diciamo, è sempre zucchero, perciò, però più naturale possibile cerchiamo di farlo, e soprattutto per quanto riguarda il gusto, il prodotto deve essere buono, buono, buono. Ecco, e la prima pubblicità è quella data dal prodotto, voi fate poca pubblicità, mi sembra, come sì, noi abbiamo tradizionale. È corretto, noi facciamo un po' di public relation, facciamo, e però ci stiamo preparando pian pianino per una comunicazione dove possiamo gestire i nostri valori, che sono molto interessanti, perché è una famiglia, diciamo, di molti anni che gestisce questo, sì. Storica e così via. Certo, un nome che è una garanzia in sé, però forse poi non basta, ci sono anche i giovani che hanno bisogno di conoscere, che hanno bisogno di sapere, ci vuole forse anche un'informazione che sia aperta a far conoscere una realtà nei suoi aspetti aziendali ma anche produttivi. Sì, assolutamente corretto. Far del bene non basta, bisogna anche dirlo, e stiamo preparandoci adesso adesso abbiamo fatto una nuova organizzazione che si appresta meglio per un discorso internazionale, perché dobbiamo crescere. Noi oggi dobbiamo essere competitivi a livello mondiale, perciò abbiamo molti compiti ancora da fare. Ma anche come azienda familiare vi sentite in grado di crescere? Sì, assolutamente. Cioè è possibile anche mantenendo il controllo, sì. Mantenendo sì. la la possibilità appunto di avere una discendenza, mantenere anche la possibilità di crescere. Non sì, pensate, questo c'è, questo pensate, assolutamente. Non pensate di andare in borsa o cose? No, assolutamente. Noi siamo molto, certamente il capitale ci vuole, ma noi siamo molto orientati sulla natura e sull'alimentazione che non sulla finanza. Incontri. Viva la mamma anche degli anni 50, dice Edoardo Bennato e Oswald Zueg, presidente di Zueg. Sicuramente la mamma è una cosa importante, una mamma è quella che decide poi di dare la merendina, la marmellatina ai propri ragazzi. Ancora la marmellata, uno dei punti di forza del coffee break, ma non è un coffee break per i ragazzi a scuola. C'è ancora la marmellata. La marmellata ha avuto negli ultimi anni addirittura un aumento del consumo, perché le marmellate sono diventate sempre più naturali, più buone anche. È qualcosa di dolce di mattina, però basato sulla frutta. E certo. Per questo la marmellata, e poi anche dal punto di vista del costo, non è eccessivamente alto. Ma ai miei tempi, quando si andava a scuola, c'era proprio la barretta di marmellata che si mangiava durante la ricreazione, no? Esiste ancora? Sì, questa barretta che si chiama Fruttino è il prodotto più vecchio della Zueg, no? È stato fatto negli anni 50, e oggi sono i ciclisti che lo prendono come, per la forza. Ricostituente, sì. Come energetico. Come droga. Quindi però esiste ancora. Sì, assolutamente, lo facciamo e lo distribuiamo là dove c'è questo consumo, soprattutto per gli sportivi, ciclisti soprattutto. Quindi viva la mamma, comunque la mamma può sempre dare anche quello sicuramente. Sì. Anche il consumo appunto familiare di marmellate in tante forme. E anche del succo, certamente. No? Del succo. Sì, adesso sì. Il vostro mix di prodotti com'è diviso a Zueg? Ma il mix di prodotti è più o meno, facciamo circa il 65% di prodotto da marca, tra succhi e confetture a livello italiano ma anche a livello mondiale, e il resto sono prodotti che noi facciamo per l'industria, prevalentemente è la marmellata per lo yogurt e la frutta. Così si può dire, è un semilavorato. È un settore abbastanza in crescita questo, mi sembra. No, in crescita attualmente no, però a livello internazionale è un business dove ci sono 4-5 grosse aziende al mondo. Questo è già un business mondiale e noi facciamo parte di questi, per fortuna. Quindi siete un'azienda di dimensione mondiale, possiamo dire. Da questo punto sì. Un'azienda familiare, un'azienda che è cresciuta avendo stabilimenti appunto all'estero, anche centri commerciali all'estero, oltre che stabilimenti, cioè quindi avete una rete forse più importante di quella italiana all'estero. Non direi proprio, però abbastanza grossa, perché abbiamo un centro commerciale negli Stati Uniti, uno in Svizzera, uno in Austria, e poi Francia, Russia e Germania, abbiamo anche gli stabilimenti con le strutture di marketing e strutture commerciali. Ecco, e per le vendite al dettaglio il luogo principale è la grande distribuzione? Sì, è la grande distribuzione soprattutto, però anche l'oreca, i bar e così via, la ristorazione, che ha un peso abbastanza importante, direi. Ecco, sotto questo profilo quali sono i problemi principali che si hanno? Forse la grande distribuzione vi impone dei prezzi particolari, riuscite ad attuare le vostre politiche commerciali, c'è concorrenza in questo settore? Beh, assolutamente, io credo che attraverso la globalizzazione la concorrenza sta sempre aumentando, perciò per le aziende è molto importante di entrare in uno standard di gestione aziendale di alto livello, e questo qui è la nostra sfida alla fine, perché sono donne e uomini che gestiscono un'azienda, e perciò facciamo molta formazione, siamo molto attenti ai nostri colleghi, come si sviluppano, e soprattutto formazione e anche modo di collaborare, di convivere. Noi abbiamo 600 persone e cerchiamo di essere molto attenti a questo. Anche a livello di quello che si chiama la responsabilità sociale dell'impresa. Sì, avete sì. una prospettiva, avete anche un bilancio sociale, mi sembra. Sì, sì. Ecco, quali sono i punti di forza di questa responsabilità sociale? Ma la prima è sicuramente di fare alimenti che seguono le diete attuali. Certamente la dieta mediterranea è già la nostra base. Quando andiamo negli Stati Uniti ci presentiamo come azienda che viene da questa dieta mediterranea, un'azienda italiana, e perciò abbiamo già un'entranza un po' più facile. Ma anche all'estero, in Russia, anche in Germania, quando facciamo vedere come noi dalla frutta fino al prodotto finito gestiamo tutto il ciclo, tutta la filiera, siamo abbastanza, non abbiamo grossi problemi di entrare. Certamente la concorrenza c'è, ma la concorrenza va anche bene per il consumatore, perché sennò avremmo prezzi troppo alti senza concorrenza. No, la concorrenza va bene, la concorrenza aiuta anche a capire anche le diversità dei vari prodotti. Forse bisognerebbe avere anche un'attenzione all'educazione del consumatore. Cosa fate per educare il consumatore a capire appunto l'importanza, per esempio, della frutta, l'importanza anche di avere delle frutte diverse? C'era una trasmissione che, appunto, in cui si parlava dei diversi colori della frutta, che sono importanti avere la frutta verde, la frutta bianca, la frutta rossa, perché insieme danno quegli elementi fondamentali poi per la nutrizione, quindi per la vita. No, quando abbiamo i contatti diretti attraverso delle degustazioni nei supermercati, eccetera, ci accorgiamo che i consumatori giovani sono molto più preparati per un'alimentazione corretta. Si vede che tutti gli stati, i ministeri, tutte le strutture anche, della salute hanno propagato abbastanza bene la necessità dell'uso alimentare in genere, e questo ci facilita parecchio, perché il consumatore oggi è molto più colto, sta molto più attento e perciò esige dei prodotti dove sa da dove arrivano, dei prodotti basati su componenti naturali e così via, eccetera. Cioè siamo proprio nel trend, a noi va molto bene questa. E comunque c'è sempre innovazione. Voi avete delle sedi dove fate innovazione, dove c'è ricerca, dove ci sono dei ricercatori che cercano delle soluzioni nuove? Noi attualmente stiamo lavorando fortemente nella ricerca agricola, perché bisogna avere la frutta giusta per la lavorazione. Noi abbiamo bisogno di frutta saporita, di frutta di un bel colore, eccetera. Perciò tra frutta che va al consumo diretto nei supermercati e la nostra frutta c'è una piccola differenza. Da noi la frutta deve essere soprattutto gustosa, non tanto bella, per esempio, certo. Non tanto grande, per esempio, però gustosa e sana, e per questo siamo molto vicini all'albero. Mia figlia, quinta generazione, si occupa dell'agricoltura. E quindi ve la fate da voi la frutta? Sì, ce la facciamo da noi, non solo in Italia, ma anche in Bosnia, anche in Cile, siamo molto molto attenti su questo. Perciò la Zueck pian pianino diventa più sistema agricolo che non sistema industriale. E qui forse si può fare sul fronte delle pesche, delle albicocche, un po' meno per gli ananas forse? Beh, gli ananas siamo ancora lontani, ma credo che in 10 anni siamo anche con gli ananas che li produciamo direttamente. Cioè, proprio in Italia oppure? No, purtroppo questi sono prodotti certo. Che vengono fuori. Quindi acquistando delle piantagioni di ananas. Questo è il futuro. Quindi in questa prospettiva avete appunto come strategia quella di cercare sempre più vicinanza tra la produzione della materia prima, vostra materia prima e poi la lavorazione. Di entrare in altri settori non avete idea, in altri settori ovviamente no. contigui, non dico di fare automobili o telefonini, ma no. in settori contigui nel campo alimentare non avete, meglio specializzarsi. Perché vede, la frutta è talmente vasta come consumo e noi facciamo solo una piccola parte di un consumo della frutta, non ci diamo ancora da fare sulla frutta fresca. Qui ci sono mondi che si aprono nei prossimi 30 anni che sono molto molto interessanti e meravigliosi. Non usciamo dalla nostra competenza, questo è abbastanza sicuro. Ecco, mondi che si aprono, che cosa intende? Mondi che si aprono, cioè come prospettive, cioè la possibilità di realizzare nuovi prodotti a base di frutta oppure di avere delle nuove potenzialità all'interno dei settori tradizionali? Ma sono prodotti, per esempio, con molto meno zucchero, per esempio, prodotti che vanno bene, meglio nella dieta, per esempio. Non deve essere solo un succo, ma può essere anche della frutta gestita dal sistema Zurich, per esempio, perché oggi il marchio, il brand è molto importante, perché dà fiducia, e noi abbiamo un marchio molto forte, basta solo utilizzarlo. Vede, noi siamo basati sulla natura e vogliamo anche restare dentro. Perciò la tecnologia la usiamo per conservare la natura in modo naturale, e qui è stata fatta moltissimo, molti passi negli ultimi 20-30 anni. E in questo senso il Made in Italy è ancora un punto di forza. Assolutamente, il Made in Italy, vede, quando andiamo fuori, la dieta mediterranea, non parlo adesso della pizza, ma il pasto, la tavola italiana è nota al mondo, per me è la migliore che esiste. Senza discussione, ecco, assolutamente. Da voi per tradizione siete vicini anche al sistema, appunto, mitteleuropeo, l'Europa, l'azienda di origine, appunto, Alto Tesina, e quindi i gusti sono un po' diversi, forse, al di là delle Alpi. Ma fino a un certo punto, vede, io che sono nato in Alto Adige, dove c'è sempre un gran turismo, vedo oggi, quando sono là, quelle poche volte che consumano l'olio d'oliva nei ristoranti, che prima i tedeschi volevano l'olio di semi. Quindi siamo riusciti anche a portare le nostre tradizioni. Il parmigiano si trova quasi in tutto il mondo, che prima non c'era. Questa è una grande forza italiana, e conserviamola e la sviluppiamo. Il parmigiano viene anche molto copiato, c'è anche un po' di contraffazione nel vostro settore? Nel nostro settore non è così facile, però c'è stato qualche cosa dove uno ha messo il marchio Zurich sopra, però non è come... Magari come la Gisola. Per non farti. È come nella moda o anche nel lusso. Quindi è un marchio che ancora si difende, va all'attacco sotto certi profili. Sì, assolutamente. Quindi come vede anche il futuro più in generale delle aziende Italia? Dobbiamo essere ottimisti, questo lo sappiamo, ma possiamo essere ottimisti? Ma prima di tutto dipende da quello che noi vogliamo fare. Cioè il governo, prima di tutto l'Europa deve adesso unirsi pian pianino, deve fare una politica economica, fiscale, finanziaria, unica, ma anche politica. L'Europa non esiste. L'Italia soffre sotto questo profilo, e per questo non dobbiamo brontolare troppo sull'Italia. Io brontolo un po' più sull'Europa, perché l'Italia fa parte di questo, però noi nel contesto tra l'America e la Cina dobbiamo pian pianino abituarci a fare questi standard che oggi globalmente ci vogliono, sia nell'Europa che anche in Italia. Dobbiamo essere convinti che l'Europa ormai è il nostro ambiente naturale. Non siamo più appunto legati all'autarchia, a una certa autonomia forse eccessiva. Dobbiamo pensare europeo, perché poi in fondo questa è una grande possibilità, una grande potenzialità. È l'unica per sopravvivere, perché sennò ci spezzano tra gli americani e i cinesi. No? Dobbiamo essere forti, cioè non solo di sopravvivere, ma anche di far valere poi i nostri punti di forza, la nostra qualità. E ci sono. Sì. Grazie mille, grazie anche per questa nota di ottimismo da Oswald Zurek, presidente di Zurich, che ci ha intrattenuto questa sera parlando di cose buone, della frutta in tutti i suoi aspetti. Grazie anche a Luca Cremonese in redazione e Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.